Convocati di Giovanni Capuano. La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, con la calza appesa al collo, col carbone, col ferro e l'ottone, sulla scopa per volare. Lei viene dal mare, lei viene dal mare, e la neve scenderà. Io non so dove siete, però dovunque vi troviate, vi fermate, scendete dalla macchina, entrate nel rifugio se state sciando, insomma fate quello che volete. 800 24 00 24, siamo qui in diretta fino alle 15.30 in questo giorno della Befana, oppure 349 238 6666 per i vostri sms, per i vostri whatsapp. Domani è campionato, domani si ricomincia. E se il calcio fosse solo numeri e statistiche, potremmo anche restare in vacanza, perché i numeri dicono che la Juventus non solo è la più forte, questo lo dice la classifica, ma è anche quella che tradizionalmente riparte meglio dopo la sosta negli ultimi anni. 2,32 la media punti da gennaio 2011 a gennaio 2016. Allegri è il miglior allenatore alle spalle di Donadoni. Curiosamente domenica sera c'è Juventus-Bologna. Dall'era dei tre punti in poi le grandi vincono quasi sempre quando ricominciano a gennaio. Milan, Napoli, Juve, Inter sono le quattro migliori, un po' staccate Roma e Lazio. Tutto questo se il calcio fosse soltanto numeri e statistiche. Però se il calcio fosse soltanto numeri e statistiche, ad esempio, oggi la Juventus avrebbe in bacheca una supercoppa in più. E invece a Doha ha perso contro il Milan. Antonio Damascelli, ciao. Ciao a tutti, auguri. Intanto auguri, auguri di felice 2017 a te. Se il calcio fosse alto numeri e statistiche, no? Però il calcio è anche altro, fortunatamente. No, per qualcuno è una scienza, esatto, un Kama Sutra tattico. No. Il calcio è il ciuffo d'erba, il calcio, hai detto bene, se il calcio fosse numeri, la Juventus avrebbe dovuto vincere a Doha, ma il calcio per fortuna non è così, saremmo tutti tredicisti. C'era una volta il 13, saremo tutti. Devo dirti che nonostante questo siamo tutti scienziati, però ecco, parliamo tutti quotidianamente, scriviamo quotidianamente, parliamo quotidianamente, quasi fosse qualcosa di già scritto e di già deciso e definito. Sì, è già tutto scritto. Domani si ricomincia Empoli-Palermo alle 18, Napoli-Sampdoria alle 20.45. Secondo te, Tony, come ha passato le vacanze Allegri? Che abbiamo lasciato cercare mimare, insomma, che avrebbe voluto prendere a calci nel sedere tutti a Doha. Ma io penso che abbia passato delle ottime vacanze, perché guida il campionato, si è qualificato in Coppa dei Campioni, in Champions League, allena una squadra, un club importante, ha il contratto garantito. Che cosa può chiedere di più alla vita? In verità poi la vita dell'allenatore dipende spesso dai risultati, lui lo sa, ha vinto lo scudetto a Milano, dopodiché è saltato in aria in una tremenda partita con il Sassuolo, ha vinto due scudetti a Torino, ma potrebbe vincere il terzo, ma al tempo stesso si dice, si sussurra, ma è qualcosa più di un sussurro, potrebbe chiudere qui la sua splendida avventura professionale a Torino. Sai che Galeone, che lo conosce bene, delle buone vacanze. Tu sai che Galeone, che lo conosce bene, ha contatti continui, gli ha suggerito di chiudere qui a giugno, ovviamente stiamo parlando del finale di stagione, di andare all'Arsenal in Premier, insomma di considerare esaurito il suo ciclo alla Juventus. Sì, guarda, Galeone ha questo fascino mediatico un po' come Zeman. Ogni tanto appaiono e parlano come degli ayatollah, e quello che loro dicono sembra un testo sacro, per cui adesso Allegri ha avuto questo badante, conosco Giovanni Galeone, un uomo intelligente, un uomo astuto, un uomo furbo, ma non è che il suo curriculum professionale sia pieno di trionfi, di una marcia trionfale appunto in Serie A con grandi club. È stato un buon allenatore, un buon professionista. Bene, io ritengo che non debba essere Galeone a dire che Massimiliano Allegri ha chiuso la sua partita juventina. io ritengo che Allegri abbia già da quest'anno, dall'inizio di questa stagione agonistica, capito che era l'ultima chiamata, ed è anche giusto, perché i cicli vengono avviati e vengono conclusi. È capitato con Conte, è capitato con Trappattoni. Ma quindi più di tre anni non si può stare in una grande squadra? No, si può anche di più. Trappattoni, lì ci sono altri esempi. Però quello che va definito in casa Juventina è anche l'assetto societario. Molti parlano e scrivono di un probabile cambiamento anche societario. Sai, le cose del futuro sono tutte nelle mani del nostro Signore. Non sappiamo quello che accadrà domani, figuratevi quello che potrà accadere a giugno. Allegri non è entrato pienamente nel sangue dei tifosi juventini, che sono abbastanza arroganti e superbi, e non si accontentano mai, vogliono sempre le brioche calde, e una volta che gli dai un pezzo di pane pensano che sia miseria. E quindi non è entrato perché non è uno che trasporta, non è uno che coinvolge, un po' come il presidente, lo stesso Andrea Agnelli, non è un uomo di popolo, è un uomo di finanza, ecco. E questo ai tifosi juventini quasi non garba, è abbastanza singolare, ma è un po' un peccato di molti popoli calcistici, A Milano è lo stesso, a Roma è lo stesso, c'è sempre bisogno della ruffa popolo o comunque del capopopolo. 349-238-6666, c'è chi evoca il mal di pancia di Dybala, credo siano soltanto schermaglie contrattuali, poi vedremo. C'è chi ricorda che la Juventus ha perso Witzel per la seconda volta in 6 mesi. Mi fate sentire il general Rincon, che voglio anche capire da te, Tony Damascelli, se Rincon è da considerare o no un rinforzo di questa Juve. Sto un po' conoscendo tutto, adattandomi velocemente, perché dopo qualche giorno si gioca, darò sempre il massimo. La cosa che magari uno può garantire è molto lavoro, perché per me è un onore essere qua, e quindi mi metterei a disposizione ovunque la squadra abbia bisogno, e cercherò di dare sempre il mio, lavorando tanto e cercando di vincere sempre. Tu a che partito ti iscrivi, Tony? A quelli per cui Rincon è un rincalzo, o a quello per cui Rincon invece era quello che serviva più di Witzel, che un giorno dopo che è stato perso, guarda, è diventato inutile. Non mi è mai piaciuto Witzel in questa maniera. Mi piaceva molto in passato, all'inizio della sua carriera, molto elegante, con grande personalità. Poi lentamente anche nella nazionale belga, un po' come Fellaini, non mi ha mai pienamente convinto. Ma a parte Witzel, che è la volpe l'uva, direi che Rincon viene da una terra, il Venezuela, che non ha grandi storie, anzi non ha storia calcistica, piuttosto una storia del batti e corri del baseball, ed è uno proprio da batti e corri anche lui, un centrocampista di quelli che piacciono molto agli allenatori, quelli che fanno tutto, gli manca il gol, serve la Juventus, come viene da Genoa, come Sturaro. Ormai Genoa è un bacino di utenza di tutte le grandi club, hanno attinto a questa squadra. Pensate che il Genoa adesso dà un giocatore alla Juventus, Rincon, e uno al Napoli, Pavoletti. Sì, c'è anche da interrogarsi, Tony, su questo campionato che permette a metà anno a chi è virtualmente salvo di smantellare. Bravo. Io ho un'idea del mercato, un po' della campagna trasferimenti, diversa. Non riesco a capire perché si debba aprire a gennaio, quando le operazioni vengono già avviate a settembre-ottobre. Il mercato dovrebbe essere sempre aperto e trasparente. Trasparente è un aggettivo molto delicato e molto pericoloso. Un calciatore può passare da una società all'altra, così come passano gli allenatori da un club all'altro. È accaduto in Inghilterra, l'allenatore nazionale sospeso, messo fuori per una storia di denari, è andato subito ad allenare una squadra di club. Sì, noi ci saremmo fatti qualche problemino, anche a livello etico. Sì, ma sai, a livello etico, il calcio italiano, se dovesse farsi ogni giorno pensieri etici, dovrebbe chiudere. L'etica che cos'è? L'etica è una fisarmonica che si apre e si chiude a seconda dei propri interessi. La trasparenza, come ti ho detto io, cioè il fatto che si possa guardare con serenità nell'affare, nel passaggio di un giocatore, nel passaggio di azioni, eccetera, è un altro discorso. Allora Rincon arriva alla Juventus in questo momento, la tua domanda iniziale, e pare che parte titolare. Già questo mi fa ridere, perché il giorno di Genoa-Juventus Rincon da solo in mezzo al campo fu molto più importante, oltre al risultato, dei tre lombrichi, come li definì io, della Juventus, che Dira, Hernanes e Pjanic, schierati da Allegri, il quale forse quel giorno si è reso conto che il giocatore giusto era dall'altra parte. Sì, e che tutti e tre insieme non potevano giocare. Grazie Tony. No, assolutamente. Ciao, buon lavoro a tutti. Grazie a Tony Damascelli. Facciamo un giro d'Italia, dai, tra quelle che aspirano a partire bene, non per il titolo di campione d'inverno, perché quello è già saldamente nelle mani della Juve aritmeticamente, ma per provare ad accorciare. Andiamo a Roma. Quello dell'impatto fisico, perché poi se riusciremo a sostenere la squadra da un punto di vista di forza e di pressione proprio fisica, poi quando la partita diventerà giocabile sarà tutto più facile, però l'impatto, l'inizio della gara sarà il momento a cui noi dobbiamo fare più attenzione. A proposito di Genoa, perché la Roma riparte proprio da Marassi contro il Genoa, una partita che giocata a novembre-dicembre sarebbe stata certamente una trasferta terribile. Oggi chi lo sa, ragionamento è quello che facevamo prima. Voglio sapere cosa ne pensate anche di questa provocazione sul mercato aperto sempre purché trasparente, e non magari come oggi che si apre a gennaio, chi è virtualmente salvo smantella e poi chissà insomma cosa resta della regolarità della seconda parte della stagione. 800 24 00 24, Roberto Renga, ciao Roberto. Buon pomeriggio a tutti. Cosa ne pensi tu sul mercato aperto sempre? Ma io lo chiuderei sempre, penso, lo farei soltanto a giugno e lo chiuderei prima dell'inizio del ritiro. Da e giugno poi a metà luglio. Il mercato, e chi si è visto, sì. Se ne riparla l'anno dopo. Ma noi cosa scriviamo dopo? Lo so che ci sono molti giornali, molti siti che fanno solo tutto mercato, che i tifosi sognano con il mercato. Però a me, non lo so, forse tu mi puoi aiutare, ma sono pochissimi i casi in cui a gennaio è successo qualcosa. Un anno fa la Roma ha cambiato la stagione a gennaio, non solo per Spalletti, sì, con sì, il Sharawi, con Perotti. E Sharawi e Perotti, in passato con Candelà, no, è successo qualche volta, però per lo più no, per lo più non lo so, ho visto solo pregature. Ma pensa che sarebbe bellissimo, senza parlare di mercato, per cui non parleremo di turbative o altro. Ma poi, per esempio, la Roma ha così tanto bisogno di comprare giocatori. Adesso ne sta prendendo uno, da quello che si sa, Pegulino. Pegulino è un gran bel giocatore, e la Roma ne uscirebbe benissimo, secondo me, prendendolo, piuttosto che Musonda, che è un ragazzino, eccetera. Però quando io sento Spalletti che dice dobbiamo prendere qualcuno perché se va via uno deve arrivare un altro, pensiamo che è andato via solo Iturbe. E Iturbe ha giocato 39 minuti nel campionato italiano. Sì, Iturbe era una riserva, Salah no, e Salah mancherà per almeno un mese, perché va a fare la Coppa d'Africa. Intanto Juve e Napoli qualcosa hanno fatto. Avevano un'emergenza a centrocampo, la Juve ha preso Rincon, aveva un buco in attacco il Napoli, ha preso Pavoletti. Mi pare che delle tre davanti la Roma sia quella ferma. Lo sentiamo Spalletti? A me la squadra sta bene com'è, io questa squadra me la sono cercata, io credo in questa squadra, siamo stati bravi in questo periodo, poi alla mancanza di qualche calciatore che si è infortunato e stanno tornando a disposizione calciatori che ci possono dare una mano. È chiaro che se poi qualcuno, come è successo per Iturbe, vuole andare a fare un'esperienza diversa, perché qui ha giocato poco e lo capisco, e noi bisogna un po' accontentarlo, però poi numericamente ci vengono a mancare, per cui quelli che partiranno vanno assolutamente sostituiti. Avviso ai naviganti, Roberto? Sì, no, per carità, non è un avviso a me, però io ho calcolato 39 minuti, per cui sai. Ma in ogni caso, in questo caso, per esempio, io sarei d'accordo, perché questo è un giocatore che se va bene tu lo riscatti, poi l'anno dopo, no, l'anno prossimo c'hai un titolare. Pegulì, se non è cambiato, perché adesso io in Inghilterra l'ho visto, ha giocato poco, ma se non è cambiato è ancora quello del Valencia, è un signor giocatore, e quindi in questo caso va bene, sono contento. Tanto notizie di mercato, Roma, diciamo, Juventus su Banega. Indiscrezione che viene da Paolo Bargigia, Premium Sport. La diamo così, poi proviamo anche ad approfondirla con il nostro Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia, Juventus su Banega. I due club sarebbero ai dettagli. Beh, bella, molto, molto affascinante, però è un trequartista. E quindi andiamo avanti con il trequartista. Io sono sempre contrario all'idea del trequartista, è una vecchia idea di Sacchi, anche mia, che l'ho fatta mia quella di Sacchi, cioè non puoi affidare tutta la fantasia del gioco a un solo giocatore, perché poi te lo marcano e sei finito. E comunque farebbe un grande favore all'Inter, perché l'Inter l'ha preso a zero, parametro a zero, per cui è tutta plusvalenza. Un signor giocatore, attenzione. Sì, un signor giocatore che i 3-4 allenatori dell'Inter di questa stagione hanno fatto fatica a collocare tatticamente. Perché qualche perplessità l'aveva anche Mancini, Mancini, che di fatto non l'ha quasi allenato. Sì, ma somiglia a João Mario, sono due trequartisti, due giocatori che non dico che sono solisti, ma che vogliono decidere loro come sarà la squadra. Ci vuole una squadra con 10 undicesimi che vada già a memoria, e poi ci sono loro. A me Banega piace, non molto, piace moltissimo, piace moltissimo, però è trequartista e quindi va lasciato libero. E mi sembra che la Juve lì già sia, no? Cioè, già si discute Pjanic e ne vanno a prendere un altro. Sì, potrebbe essere, siccome gira qualche voce su Pjanic in partenza, davanti a un'offerta di quelli irrinunciabili, magari potrebbe essere una chiave di lettura a piani multipli. Però abbiamo tempo fino alle 15.30 per provare ad approfondirla, perché effettivamente l'indiscrezione, che ripeto, proviene da Premium Sport e proviene da Paolo Bargigia, è assolutamente di quelle stuzzicanti. Ti posso chiedere un minuto di pazienza ancora, Roberto? Abbiamo il traffico, torniamo subito. 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Siamo con Roberto Renga, 800 24 00 24. Da qui alle 15.30 parleremo molto anche di mercato, raccoglieremo anche le ultime voci, le indiscrezioni anche su Riccardo Orsolini, su cui si sta scatenando un'autentica asta tra Juventus e Napoli, attaccante esterno dell'Ascoli. Per chiudere con Roberto Renga, mi dici a tua sensazione chi rischia di più di restare col panettone sullo stomaco. Io le leggo le partite. Poi 14.30 arriva anche Pierluigi Pardo, Napoli-Sampdoria, parlo delle grandi, Genoa-Roma, Juventus-Bologna, Milan-Cagliari, Udinese-Inter. Ma non c'è dubbio che la partita più difficile è quella della Roma. E diremmo difficilissima, ho sentito prima che lo dicevi e sono d'accordo, se ci fosse anche Rincon, no, e Veloso. E chiaramente sarà costretta a cambiare, Rigoni tornerà dietro. Però resta comunque la partita più difficile tra tutte le grandi, anche quella dell'Inter, che però consideriamo la grandina in fase di sviluppo, diciamo. Sì, l'Inter ha il difetto di non poter più non vincere queste partite così. Qui. Beh, anche la Roma però, perché se pensate che mettiamo un pareggio, no? Che di solito un pareggio a Marassi è un ottimo risultato, ma un pareggio in questo caso potrebbe inguagliarla non tanto per il primo posto, che mi sembra più o meno aggiudicato, quanto per il secondo posto, perché tutte le altre hanno partite abbastanza semplici in casa. Poi la prossima partita della Roma sarà ancora in trasferta, Udine. Quindi la Roma ha due trasferte. E come sappiamo, la Roma in questo momento è la sesta squadra in Italia nelle trasferte. Una squadra che fatica fuori casa. Ti ha avuto un rendimento assolutamente incoerente. Ti saluto anche con i dati. Credo li abbia pubblicati oggi Libero. Negli ultimi 5 anni i peggiori, nelle prime 5 partite dell'anno, quindi diciamo le partite di gennaio, sì. Spalletti ha fatto più o meno la metà dei punti di Allegri. Io non so se questo ti può consolare. Ciao Roberto! Buona giornata, buon anno! Ciao Roberto Renga! Ignazio Abate, Riccardo Montolivo in due ad alzare la Supercoppa 2016. Supercoppa che è la settima vinta dal Milan. Il primo trofeo targato Montella. Peggio di Spalletti ha fatto Montella in questa tabella statistica, 1.24 di media nelle partite di gennaio. Fabrizio Biasin, ciao Fabrizio. Ciao Giovanni, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Dicevo più buon anno, che ormai ci ha stufato. Vabbè, insomma, siamo soltanto a 6 gennaio, si può, fino a quando si può andare avanti? Fino a Ferragosto. Fino a Ferragosto, sì, come a pagare le tasse, no? Tu sai che c'è il giorno in cui si smette di pagare le tasse. Che effetto ti fa sentire, l'abbiamo detto prima, rilanciata come indiscrezione da Paolo Bargigia, Premium Sport, Inter e Juve i dettagli per Banega? Non ci credo, non ci credo neanche se lo vedo. Perché? perché ricordo quello che è successo la scorsa estate, quando di fronte a una mega offerta del Napoli per Icardi, in ambienti cinesi hanno fatto sapere: se questi insistono per Icardi, noi ci informiamo per Amsic. Dubito che questa cosa si possa riproporre sei mesi dopo con altri giocatori, ovviamente, ma io la vedo veramente una cosa difficile, se non impossibile. Anche se Banega, l'Inter avrebbe anche tutto l'interesse di venderlo. Sì, perché si creerebbe una plusvalenza purissima, perché il giocatore è arrivato a costo zero, ce lo ricordiamo. Probabilmente in questo momento non è neanche fondamentale nello scacchiere di Pioli, anche se io credo che poi domenica giocherà titolare, quindi evidentemente a Pioli interessa il ragazzo. Guarda, scrive un amico: meglio Banega o Jovetic per la Juventus? Ah, non lo so. Restiamo sul filo delle provocazioni. Forse mi serve di più Banega ad Allegri, aspetta quel tipo di giocatore da tanto tempo. Però è anche vero che la Juventus è una squadra già al completo, per come la vedo io. Molti ragionano su un centrocampista in più che probabilmente arriverà, per non lasciare nessun tipo di tentativo intentato in ottica Champions, ma stiamo parlando di una squadra comunque al completo. C'è il rischio, Fabrizio, a Milano diventare strabici, tra la voglia di guardare al futuro, quello che sarà in estate. Oggi poi, ripeto, ne parliamo, oggi c'era sulla Gazzetta dello Sport il nuovo Milan paradiso, poi i nomi sono più o meno sempre gli stessi: Keita, Bernardeschi, Berardi, e invece la necessità di guardare all'oggi o anche a ieri, perché abbiamo sentito, insomma, il Milan è quella che ha chiuso il 2016 alzando una coppa. Secondo te chi riparte meglio tra Milan e Inter? Ma diciamo che il Milan arriva con uno spirito sicuramente ottimo per quanto riguarda il campo, perché arriva da una vittoria, ha fatto un trofeo importante e sicuramente si ributta sul campionato con un bello spirito. Di sicuro le voci di mercato fanno più felici, però il problema è che il mercato, noi ci concentriamo tantissimo. Aspetta che è caduto Fabrizio Biasin, adesso lo recuperiamo. E intanto sentiamo Gagliardini, l'ultimo Gagliardini prima delle voci che lo davano immediatamente all'Inter, cosa che poi almeno fin qui non è accaduto. Robby è l'ultimo. Ma che sono malattia, mi ha chiesto il manzo, ostia, e mi ha chiesto il manzo, che sono malattia. Ci vediamo domani? Che forza, che fa, muoio, no? No, beh, qua a Bergamo intendo dire. Certo, posto? Quindi qua, ma che gli auguri ai toni. Grazie. Senta, Monolta, dai. Certo, va bene? Certo, sempre certo. Forza Atalanta. Sempre. Contro il Chievo domenica o contro l'Udinese? Dai. Dai, ciao, ragazzi. Ciao. Credo sarà contro il Chievo, no, Fabrizio? Ti abbiamo recuperato. Sì, eccomi, eccomi. Credo sarà contro il Chievo, Gagliardini, non contro l'Udinese. Contro l'Udinese la vedo molto, molto difficile. Sicuramente la trattativa è in corso. Sappiamo che deve arrivare Zhang per dare l'ok definitivo, non dovrebbero esserci grossi intoppi, e Pioli avrà quel giocatore che serve per dare un po' di equilibrio alla rosa, anche se non tutti sono d'accordo. Sai che ci sono tanti che ragionano sul fatto che Gagliardini sia una mezzala pura. Io non la vedo così, secondo me ha giocato tante volte quest'anno davanti alla difesa, può recuperare benissimo quel ruolo. Sì, c'è anche chi dice che 27-28 milioni sono troppi. Sì, per, è vero. Per sei mesi in Serie A è assolutamente vero, sono tanti soldi, però questo è, lo so che è brutto dirlo, ma un problema relativo in questo momento. Cioè l'Inter, in mezzo a tanti problemi, non ha più quello economico, o meglio, a gennaio non può spendere per le questioni legate al fair play finanziario, ma ha un patron che si può permettere questo genere di investimenti. Il problema non è quanto ha speso l'Inter, il problema è quanto può essere utile questo giocatore all'Inter. Se è utile, la spesa va benissimo. Se invece si rivela un giocatore superfluo o non funzionale al gioco di Pioli, allora hai buttato via dei soldi. Sì, bisogna anche vedere, insomma, quanto avrà coraggio l'Inter poi di insistere. Grazie Fabrizio. Grazie a voi, buon proseguimento, ciao ragazzi. Andiamo a Napoli. Sai, poi c'è da trasformare la prestazione in risultato, e non è esattamente una nostra specialità questa, perché siamo riusciti a non fare il risultato pieno, una prestazione eccezionale, quindi vuol dire il nostro limite in questo momento è questo, e stiamo cercando di lavorare per vedere se c'è la possibilità di porre un rimedio a questo limite, che è un limite non da poco, perché in questa stagione ho visto gettare punti con prestazioni notevoli. Quindi un limite a livello di mentalità che stiamo cercando di combattere, e penso che il nostro salto di qualità possa solo passare attraverso quello. Questo Maurizio Sarri pochi minuti fa, domani ore 20:45 Napoli-Sampdoria, Raffaella Auriemma, ciao. Ciao Giovanni, buongiorno a tutti e ovviamente di nuovo buon anno. Certo, buon anno a tutti, si può andare avanti fino a Ferragosto, l'ha detto Fabrizio Biasin a farsi gli auguri. Raffaele, intanto il mercato, perché a proposito di indiscrezioni, prima abbiamo citato quella di Bargigia su Banega e la Juventus, tu questa mattina hai detto, hai scritto, Orsolini, il Napoli brucia la Juve. Sì, come offerta certamente, perché il Napoli ha offerto 7 milioni e mezzo per un ragazzo che ne vale al massimo 4 e mezzo ed è pronto ad arrivare anche a 9. Giuntoli sta corteggiando tutti i giorni Donato Di Campi, che è il suo procuratore. Il 24 gli ha fatto gli auguri della vigilia, il 25 buon Natale, il 26 buon Santo Stefano, il 31 uno stalker praticamente. Uno stalker, esatto, perché vuole strappare il sì a questo ragazzo, allettato anche economicamente, perché il Napoli gli triplicherebbe l'ingaggio per 5 anni, tradotto, quindi sarebbe un bel po' di soldini. Tra l'altro c'è una pregiudiziale che fa pendere la bilancia verso il Napoli. Il Napoli lo vuole subito. Se il Napoli lo acquistasse oggi, martedì sarebbe in panchina contro lo Spezia, perché lo considerano il nuovo Cagliacon, l'alternativa a Cagliacon, un ragazzo su cui puntare. Questo colpisce molto Orsolini, perché l'Ascoli ha un intreccio forte con la Juventus. Ricordiamo che ci sono due calciatori della Juve, Favilli e Cassata, che giocano nell'Ascoli, però l'offerta del Napoli ha fatto traballare Cardinaletti. Insomma, ad Ascoli sono in grande difficoltà. Orsolini vuole il Napoli perché lo mette in rosa subito, non lo gira altrove come farebbe la Juventus. L'unico problema è sempre lo stesso, i diritti d'immagine. Però secondo me, se scende in campo De Laurentiis, come farà a parlare direttamente con il calciatore, con il suo procuratore, alla fine la spunta il Napoli. Sì, e dà anche un segnale, perché tradizionalmente questi sono giocatori, negli ultimi anni almeno, che raramente sono sfuggiti alla Juventus se la Juventus è scesa in campo. Oh, prima abbiamo sentito Sarri che parlava di quell'intervista di Prandelli, in cui Prandelli ha detto attenzione, perché anche in Spagna considerano il Napoli una squadra assolutamente temibile, una delle migliori d'Europa, forse la migliore squadra d'Europa. Il che credo metta anche un po' di peso e di responsabilità, no? Al Napoli? Eh sì. Ma non credo, il Napoli ormai è abituato ad essere considerato in questo modo. Il Napoli deve soltanto crescere nei suoi ragazzi, che sono i più forti. E tu pensi, no? Il Napoli del futuro sono tutti ragazzi dal 90, 91, 92, Yusai, Koulibaly, Maximovic, a centrocampo Zielinski, Diawara, Jorginho, Rog, in attacco Insigne, Milik, tanta roba, sono tutti ragazzi dal 90 in poi. In più ne metti altri come Orsolini, per esempio, allora capisci che il progetto c'è, bisogna soltanto aspettare la maturazione completa. Talvolta il Napoli nelle gare chiave non ha fatto proprio la partita per una questione di timidezza, probabilmente al cospetto di una squadra più importante, di un risultato eclatante, come lo fu per esempio l'anno scorso quando a Torino perse all'88esimo una partita, dico che l'aveva dominata, ma comunque la teneva in pugno e poteva rimanere al primo posto. È una questione di tempo, il Napoli ha bisogno solo di tempo. Dall'anno prossimo la maturazione di questi ragazzi porterà la squadra a lottare da subito per lo scudetto. Poi con Real Madrid si vedrà, dipende dall'approccio, dipende da quanta tensione accumulerà la squadra, oppure se Sarri e Giuntoli saranno bravi a sciogliere queste tensioni che ad oggi il Napoli ancora ha. Che ancora ha. Abbiamo la borsa, mi dici in 20 secondi chi gioca dietro, visto che il Napoli ha un po' d'emergenza domani contro la Samp? È difficile dirlo, perché noi sappiamo quali sono le... Cioè, le gioca o no Tonelli? Ma io penso di sì, perché come fai a rischiare Kinikesh, che si è allenato una sola volta ieri dopo essersi infortunato ad un muscolo a Firenze? Puoi rischiare di perderlo quando ti mancheranno Koulibaly, forse chi lo sa, Albiol, ma per il momento tu hai un'emergenza in difesa, non puoi correre il rischio. Io Tonelli lo farei giocare, anche perché Sarri lo conosce benissimo, sarebbe titolare in mezza Serie A, perché non deve giocare. Si sarà pure allenato in questi sei mesi, no? Come no? Che non ha fatto un minuto. Grazie Raffaele. Ciao, buon proseguimento. Grazie Raffaele Auriemma, ci fermiamo. 800 24 00 24, poi arriva anche Pierluigi Pardo, continuiamo il nostro Giro d'Italia. Tutti convocati. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... Il 25 gennaio un gruppo scelto di ascoltatori di Melog avrà l'opportunità di visitare la mostra Homo Sapiens al MUDEC di Milano assieme a me. Per essere selezionati e far parte del gruppo degli eletti sarà necessario inviare due foto di se stessi alla mailbox melog@radio24.it. La prima foto dovrà essere del proprio passato e l'altra del presente. Gli ascoltatori dovranno indicare qual è stata la loro evoluzione o involuzione nel periodo che passa tra le due foto. Darwin ci ha insegnato che non sopravvive il più forte, ma il più capace ad adattarsi al suo ambiente. Ma noi quanto e come ci siamo adattati? 25 gennaio, ore 20:30 al MUDEC, via Tortona 56 Milano. Tutte le info su radio24.it. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14:30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Convocati 800 24 00 24, arriva Pierluigi Pardo. Intanto saluto Delio Rossi. Mister, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Pomeriggio e auguri. Oh, dicevamo prima in apertura, se il calcio fossero soltanto numeri e statistiche potremmo anche restare in vacanza. La Juve è più forte, quella che parte meglio dopo la sosta. Allegri allenatore insieme a Donadoni con la media punti migliore nel mese di gennaio. E quindi... Tutto scritto? Tutto scritto. Beh, sicuramente la Juve, l'abbiamo detto tutti noi sospetti, che se non vince il campionato penso che sia di merito suo, non certo merito degli altri. Però questo il turno dopo le vacanze è sicuramente un turno insidioso, non penso per la Juve. Chi è che rischia di più? Io le rileggo le partite delle big, Napoli-Sampdoria a partire da quella di domani sera, poi le trasferte dell'Inter e della Roma, Udine contro il Genoa, c'è Pescara-Fiorentina, c'è Milan-Cagliari, c'è Juventus-Bologna. Ma io penso che la trasferta a Roma è una trasferta insidiosa, anche quella dell'Inter a Udine è una trasferta insidiosa. Pier, ci sei? Ci sono. Eccoti. La trasferta della Roma è la più difficile di tutte, credo oggettivamente. E poi i numeri della Roma sono numeri fuori casa così. E poi insomma che dimensione parliamo, chiaramente se allarghiamo il discorso alle inseguitrici, cerchiamo dentro anche l'Inter che sicuramente a Udine non se la porta la casa, anche se per uno sta benissimo, e questo insomma è un dubbio che può pesare sulla partita. Se il discorso insomma lo leghiamo alle prime quattro, io penso che insomma sia la Roma sia sicuramente la partita più complicata. Ma avete la sensazione che questi primi giorni di mercato stiano cambiando qualcosa? Cioè, abbiamo visto che si sono mosse Juve e Napoli, lo chiedo a Delio Rossi, avevano due emergenze, hanno comprato due giocatori, gli altri sono fermi, però il mercato di gennaio è un mercato molto particolare, nel senso che se fai molti movimenti hai sbagliato il mercato di giugno. C'è questa variabile dovuta di giocatori che vanno a giocare alla Coppa d'Africa e sono anche giocatori importanti, vedi quelli del Napoli, però le altre squadre poi non hanno queste possibilità economiche come magari il Napoli e la Juve, quindi magari aspettano che di trovare magari il saldo, visto che oggi mi sono i saldi. Pier? Ma io penso che sia molto difficile, cioè sono pochissimi gli esempi di mercato di gennaio che cambia realmente la fisionomia di una squadra. L'anno scorso abbiamo avuto un esempio secondo me virtuoso, che è stato quello della Roma, ovviamente anche con il cambio in panchina, però insomma l'effetto Perotti e Sciauli l'anno scorso è stato pesante. Però di solito è difficile, ci possono essere giocatori che magari prendi che non vanno in Champions, che non sono eleggibili delle coppe europee, però che ti possono far rincatare quando è arrivato Ronaldo al Milan. Non so, ci possono essere delle situazioni particolari, però è difficile a gennaio cambiare il volto, l'economia di una squadra. Se c'è un problema specifico, questo può essere risolto. Ecco, invece, le Pavoletti a Napoli sicuramente è una soluzione interessante, perché Napoli ha sofferto, anche se ormai l'antidoto l'ha trovato, però se pensiamo a tutto il periodo senza Milik, sicuramente Napoli ha avuto un problema specifico in quel ruolo, e se avesse avuto Pavoletti a metà ottobre sicuramente sarebbe stato un vantaggio. Però, sì, insomma, anche se poi magari non avrebbe trovato i gol di Mertens, non l'avrebbe scoperto capace anche di giocare, sì, in quel però, posto. Però il Napoli, adesso noi siamo giustamente abbagliati dai gol di Mertens, ed è giusto che sia così, perché Mertens ha fatto delle cose incredibili, perché Sarri è stato bravo nel crederci, però il Napoli dei punti l'ha persi con l'infortunio di Milik. Cioè, se noi guardiamo al complessivo dei tre mesi senza Milik, dei 60-80 giorni senza Milik, il Napoli qualche punto l'ha perso, soprattutto nella prima parte, e l'ha perso perché non aveva un giocatore con quelle caratteristiche. Quindi, se la guardiamo da un punto di vista complessivo, è stato comunque un errore, un problema, e il Napoli qualche punto in meno ce l'ha. Pavoletti è l'uomo giusto degli Orossi per il Napoli? Sicuramente è un profilo interessante, soprattutto di un'alternativa, anche perché Mertens è un giocatore fantastico, soprattutto in questo momento sta in una situazione di grazia, però ti dà la possibilità magari di poter alzare la palla, magari di fare anche qualche cross, e sicuramente un finalizzatore. Sicuramente però, conoscendo Sarri, ci sarà un tempo di apprendistato, non è quel tipo di giocatore che subito entra e subito rientra in tutti i movimenti, in tutti gli schemi. Conoscendo Sarri, ho visto i suoi trascorsi, presumo che un po' di apprendistato lo dovrà fare. Anche se è stato preso, credo, per giocare subito, no, mister? Ma anche Pier, cioè, l'emergenza è adesso. Scusa Delio, vai. No, sì, l'emergenza adesso, però i trascorsi di Sarri dicono che, cioè, non è quel tipo di allenatore che mette dentro subito un giocatore se non lo vede magari integrato con gli altri, quindi sembra che venga in un infortunio. Quindi secondo me continuerà con Mertens. Pier, cioè, sarebbe clamoroso, però adesso appena si riprende dall'infortunio sarebbe clamoroso. Ma adesso, a parte che, insomma, parliamo di una roba che succede tra 10 giorni, e 10 giorni in questo momento dell'anno sono veramente un tempo biblico. No, io non credo che andrà avanti, cioè, credo che adesso andrà avanti con Mertens per quanto riguarda la Napoli-Santos, ma poi appena Pavoletti avrà una condizione fisica buona, secondo me Pavoletti sarà il titolare di questa squadra, aspettando il ritorno di Milik, con Mertens che farà l'esterno da una parte e Kayakon dall'altra. Sarri a questo punto, poi Sarri è anche un allenatore che segue molto, Dario lo conosce ovviamente meglio di me, ma insomma segue molto anche il momento, no? C'è un allenatore che fa delle scelte, poi magari cambia idea perché succedono delle cose e prende l'altra strada. Cioè, non è un allenatore da turnover, non è un allenatore che mixa continuamente e che gestisce col misurino l'energia dei suoi giocatori. Quando c'è una squadra, un progetto, una situazione che lo convince, giocano questi. Poi magari quelli vengono superati da altri, il caso scorso anno clamoroso di Valdifiori Allan, tanto per fare un esempio, o anche quello che è successo tra Insigne e Mertens tra l'anno scorso e quest'anno. Cioè, è un allenatore, Diawara, che ha aspettato 2 mesi e mezzo prima di giocare e poi ha preso continuità, quindi è un allenatore da questo punto di vista che si fida degli stessi. Però io credo che Pavoletti abbia delle caratteristiche talmente precise che poi a Napoli comunque è stato mancate, preso per quello, è stato preso per quello, che Mertens adesso abbia fatto 74 gol nelle ultime 4 partite, questo è certamente positivo, però è comunque un adattato in quel ruolo, no? È comunque uno che se facesse l'esterno per una vera prima punta farebbe lo stesso Fraceli. Cioè, non significa rinunciare a Mertens, schierare Pavoletti e mettere Mertens da esterno offensivo. No, significa rimetterlo lì dove era stato pensato. Esatto. Lì dove era stato pensato. Abbiamo un paio di minuti prima del traffico. Luigi Pardo degli Orossi, vi faccio sentire ancora un pezzettino di Sarri oggi. A proposito della volontà di vincere a Napoli, perché vale più che altrove, soprattutto a Torino. Io spero per vincere e spero di poterlo far qui, perché penso vincere lì sarebbe il top. È difficile. Difficilissimo, per tutta una serie di motivi e sapete tutti benissimo. Però spero che questa squadra possa diventare sempre più competitiva. Ha ragione o no degli Orossi che vincere a Napoli insomma è sempre più difficile? Secondo me ogni tanto quando si fanno questi discorsi c'è sempre un po' di senso di inferiorità. Vale per il Napoli ma non solo, eh? No, sicuramente sono degli ambienti particolari, ad esempio io conosco bene quello di Roma, un altro ambiente particolare, perché non ho più impresa perché per tanti anni e anche magari avendo anche fatto delle investimenti importanti, avendo anche delle squadre importanti. Però nel tempo gli investimenti non hanno fatto sì che tu possa avere, sicuramente di questo sono convinto, ma questo l'ha detto anche lo stesso Capello, che è allenato a Roma, è allenato la Juve, è allenato in tutto il mondo. Sono ambienti un po' particolari che ti danno molto e ti tolgono tanto, soprattutto non essendo abituati a vincere, anche perché per la Juve è una ragione di vita, cioè. Infatti lo diceva lo stesso presidente Boniperti, che la Juve non è importante vincere, ma è l'unica cosa. Questo fa sì che poi, ma dipende poi anche dai giocatori che hai, che danno un metro anche a quelli che arrivano. Napoli sotto questo punto di vista magari ha meno di questi giocatori. Paradossalmente ce n'ha più la Roma. Sì, abbiamo il traffico, io ringrazio degli Orossi, grazie. Grazie a voi, auguri, buona giornata. Grazie degli Orossi, Pier, stai lì, perché adesso ti faccio sentire, dopo il traffico, un Pioli, poi c'è anche il momento della schedina, che 2016 non l'hai finito benissimo. 800 24 00 24, traffico. Tutti convocati. Convocati. Arriviamo a 3 vittorie, ma tutte vittorie sofferte, faticate, dove abbiamo dovuto lavorare la squadra, dove abbiamo dovuto sacrificarci, e questo è quello che ci aspetta anche domenica. L'Udinese è una buona squadra, ci metterà in difficoltà, è una squadra fisica, è una squadra di qualità, è una squadra che con il Nenè sta ottenendo ottimi risultati, quindi dobbiamo essere preparati soprattutto a livello mentale, di stare dentro la partita, di saper lottare per 95 minuti. Questo Pioli oggi a Premium, tu hai l'impressione, Pier, che l'Inter sia davvero in corsa per il terzo posto? No. I numeri dicono così, perché 5 punti non sono poi tantissimi. L'Inter è sicuramente in grandissima tendenza, su questo non ci sono dubbi, e secondo me Pioli, la mano di Pioli si vede, si stravede, penso sia favorita per dopodomani a Udine. Io penso però che Roma e Napoli abbiano qualcosa in più, quindi che l'Inter sia in corsa per il terzo posto ci sta. Che l'Inter, se dovessi fare tanto sbaglio tutti i pronostici, se dovessi dirti fa che l'Inter, per me l'Inter se la gioca con la Lazio per il quarto posto, questo è quello che vedo oggi. Però è chiaro che se uno fra Roma e Napoli dovesse avere un calo diciamo imponderabile, l'Inter potrebbe l'Inter e la Lazio potrebbero farsi trovare pronto, cioè secondo me, e lo stesso Milan ovviamente, non è che siamo dimenticati, insomma secondo me sono quelle tre lì che sono alle spalle di Roma e Napoli, che secondo me hanno ancora qualcosa in più. Però l'Inter sicuramente ha ritrovato una quadra, ha ritrovato un equilibrio, sono 3 partite che non subisce gol, sono 3 partite che vince. Insomma, ci sono dei segnali abbastanza precisi di rinascita, una squadra oggi con una... Ma poi in realtà, diciamo chiaramente, l'Inter era buona fin dall'inizio della stagione. Poi, che a me, ho fatto 1000 volte questo discorso in questa stessa radio, non si è piaciuta l'idea che tu a metà, anzi 10 agosto, vai, prendi De Boer, perché puoi costruire un ciclo, no? Con un allenatore, con una fisionomia, con una cultura calcistica di un certo tipo, e poi dopo 2 mesi lo fai fuori. Questo a me non è piaciuto. Non è piaciuto perché secondo me è una forma di incoerenza. Però probabilmente, allora De Boer è questa stessa cosa, l'abbiamo detta 1000 volte, forse non era semplicemente l'allenatore giusto. No, è bastato mettere un allenatore normale, quindi, e l'Inter sta andando come norma. C'è stata una cosa irrituale, c'è stata una cosa sbagliata, c'è stata una cosa illogica, ma la cosa illogica è stata per correggere un errore che era stato fatto in partenza. Questa è la lettura che possiamo dare, perché è bastato un allenatore tra virgolette normale, bravo, sicuramente come Pioli, ma normale, cioè non è che è arrivato il dio del calcio che perdonerà Pioli, no, da questo punto di vista. È arrivato un allenatore bravo, molto bravo, sicuramente uno degli esponenti più interessanti del Made in Italy, è arrivato lì, ha messo le cose a posto in poche settimane. Questo è abbastanza oggettivo. E, sì, questo, ripeto, questo lo dico nei numeri. Pioli è un bravissimo allenatore normale, passami da... No, ad oggi, poi gli auguro di vincere la Champions League, però ad oggi è un bravissimo allenatore normale, non è che hai preso Guardiola o hai preso Conte o hai preso Mourinho, hai preso un allenatore che ha dimostrato in questi anni di avere qualità, certamente di essere un allenatore emergente, che probabilmente se l'avessi preso ad agosto oggi l'Inter era, non dico in corsa per il titolo, ma era... Avresti qualche punto in più, saresti più vicino al terzo posto. Non credo ci siano dubbi. Invece di essere lì con le spalle al muro, il calendario dice Udinese, Chievo, Palermo, Pescara prima della Juve, poi Empoli, Bologna prima di Inter-Roma, che se Pioli fa come nelle ultime 2-3 settimane, quell'Inter-Roma 26 febbraio è il vero spartiacque della stagione dell'Inter. Però già da domenica Udine l'Inter non può più sbagliare, che significa anche probabilmente pareggiare, perché non se lo può più permettere. Oh Pier, sei pronto? Ah sì, sono pronto, sì. C'è il momento della schedina. Vai. Allora, ricordando che le ultime tre settimane gli incroci sono stati favorevoli. Ma anche le settimane prima. Ma io non l'avevo fatta prima. Cosa ti vuoi? Vabbè. Ok, vai. Allora, Empoli-Palermo, domani ore 18. E fallo tu prima, è prossimo. Io dico X. 1. Napoli-Sampdoria, per me uno. È 1. Okay. 1-1. Udinese-Inter, per me è 2. 2. Chievo-Atalanta. Io dico X. Anche io dico X. Ma tu mi copi, Dai, io dico, la prossima faccio io, dai. Genoa-Roma. X. Io dico 2. Lazio-Crotone. Capuano. 1. 1 anche per me. Pescara-Fiorentina. Prego. Pescara-Fiorentina io dico X. Io dico 2. Sassuolo-Torino non ci sarà Berardi dal primo minuto perché non è ancora pronto. Prego, tocca a me? Ma come vuoi. Sassuolo-Torino è un casino vero, lo sai? Sì. Sassuolo-Torino... Io mi rifugio nel pareggino, così, tranquillo. Mi rifugio nel pareggino che... come se fossimo ancora negli anni 80 con la vittoria che vale 2 punti, tutti i rifugi del pareggio. X anch'io su Sassuolo-Torino. Poi Milan-Cagliari e Juve-Bologna, per me sono 2-1. Sì, anche per me, anche per me. E allora 2-1 anche per Pierluigi Parra, anche se Milan-Cagliari non è una partita facile. Sì, non è una partita facile, però mi è uscito il famoso Milan-Crotone di qualche settimana fa, quando ancora non giocavi, avevo detto 1 con fatica, ecco, è un po' lo stesso discorso. 1 con fatica. Carissimo Pier, ci sentiamo domenica di ritorno da Udine. È finita qui, sì. Sempre migliori che se ne vanno. Non io, voglio dire, il programma. Ci sentiamo domenica. A domenica 17:19 noi saremo in onda, rigorosamente in diretta. Pierluigi Pardo torna da Udine, dove avrà fatto la telecronaca di Udinese Inter. E avremo anche tante sorprese. Andiamo un attimo in Inghilterra, poi ci fermiamo un istante. Riccardo Mancini, che oggi alle 20:55 racconterà West Ham Manchester City, che apre il terzo turno della FA Cup, Fox Sports, racconta Manchester City contro West Ham, che apre il terzo turno della FA Cup. Riccardo, ciao, buon pomeriggio. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti e buon anno. A occhio da questa sera in poi, grandi sufficientemente al riparo da trappole, cattive sorprese, no? Beh sì, soprattutto perché parlando strettamente del Manchester City non è un gran momento per Pep Guardiola, no? Lo sappiamo, un po' di nervosismo, le dichiarazioni in conferenza stampa che hanno lasciato tutti un po' interdetti, incertezze sul suo futuro, e questa sera il Manchester City ha una turning point da dover sfruttare, perché se da una parte è vero che il Chelsea si è fermato in campionato, il Manchester City nella sua testa può azionare un meccanismo diverso di rincorsa al Chelsea proprio in Premier League, l'FA Cup può essere sicuramente la competizione in cui Guardiola esordisce, anche un viatico importante per mettere un po' di benzina, no? in questa seconda parte di stagione. Ma si è capito se si sta ritirando o no Guardiola? Non si è capito. Che ha tenuto però a vive le prime proprio pagine dei tabloid questa settimana. Sì, lui diciamo che ha voluto chiarire un po' questa sua posizione, secondo me un po' strana nel momento in cui l'ha detto, ma ha detto queste cose sull'onda della delusione per come era andata la partita dell'ultimo turno, perché è vero che il Manchester City ha vinto 2-1 contro il Burnley, però parliamo sempre comunque di una neopromossa. Il Manchester City ha faticato tantissimo, è abbastanza lontano dalla vetta. Credo che difficilmente Guardiola possa lasciare il calcio nel giro di 2-3 anni come qualcuno aveva paventato. Piuttosto lui ha voluto chiarire questa cosa ieri in conferenza stampa dicendo: io non ho mai detto che chiuderò la mia carriera da allenatore nel giro di qualche anno, ho detto soltanto che non ho voglia di allenare fino a 70 anni. Lui ne ha 45 in questo momento, ha ancora almeno 10 anni di grande calcio. Sì, anche se mi pare essere uno che si consuma anche abbastanza in fretta. Ma più che altro è uno che non è abituato alle pressioni a cui era abituato e a cui è abituato José Mourinho, e forse per questo ha un po' risposto spazientito, piccato, chiamatelo come volete il suo modo di rispondere ai giornalisti in conferenza stampa, però come detto non è uno abituato alle pressioni e forse si è lasciato un po' troppo condizionare. Ecco, io forse la leggerei così, questa sua uscita forse un po' infelice, no? Sì, ma il bilancio di Guardiola in questi primi mesi al Manchester City, io non so se possa essere esattamente definito positivo. Cioè, sta dando un'impronta sua, sta cambiando e non è facile. Non è stato nemmeno facile in Germania, figuriamoci in Inghilterra, dove giocano un calcio completamente differente da quello che è in testa Guardiola. Però è anche vero che, ad esempio, i numeri dicono che oggi il Manchester City è di rincorsa. Sì, io prendo in considerazione in questo senso una tua parola. Hai detto ha cambiato qualcosa. Lui forse ha cambiato troppo in questo inizio di stagione. Ha iniziato alla grande con 10 vittorie di fila. Poi però questi troppi cambiamenti, tanto che in Inghilterra hanno addirittura riparlato di Tinkerman, no? Ricorderete un appellativo che in Inghilterra diedero a Claudio Ranieri quando era al Chelsea per i tanti troppi cambiamenti, per le sue indecisioni costanti quando era allenatore dei Blues. Ecco, questo ha fatto un po' riflettere qualcuno e la stagione di Guardiola non sta andando proprio nel verso migliore, perché probabilmente in molti si aspettavano che in questo momento il City fosse davvero primo senza rivali in Premier League almeno, invece questo non sta accadendo. Dal punto di vista tattico i troppi cambiamenti, e non solo quello dal punto di vista degli uomini, hanno un po' messo fuori causa alcuni giocatori. Lui è partito con la difesa a 3, ha cercato di schierare tutti i suoi giocatori d'attacco di fantasia, 3-1-4-2 stile Jorge Sampaoli, poi però è tornato sui suoi passi, è tornato ad un 4-2-3-1 di Manciniana o Pellegrini Moria, se vogliamo, e adesso sta trovando un po' la quadratura del cerchio. Però le sconfitte prima contro il Chelsea e poi contro il Liverpool qualcosa sicuramente hanno fatto scricchiolare, diciamo un po' così, nelle certezze. Sì, hanno lasciato un segno. Abbiamo 30 secondi, ti giro un messaggio sì. Che è arrivato. Cosa ne pensi del Liverpool? Se può essere l'anno buono? Può essere l'anno buono, ma più che altro perché Klopp ha preso la squadra finalmente dall'inizio della stagione, la sua impronta si vede in maniera importante. È anche vero però che Liverpool ogni tanto a livello difensivo fa molta fatica, a livello offensivo è forse la squadra che diverte e che gioca il miglior calcio d'Inghilterra. Non sono tantissimi i punti che lo tengono distante dal Chelsea, quindi insomma le speranze per il Liverpool ci sono, e come, perché lì davanti Klopp ha un potenziale davvero forse inestimabile per i vari Sturridge, Origi, Firmino, Lallana, ne ha talmente tanti che può davvero sbizzarrirsi su diversi fronti, e questo Liverpool deve solamente crescere un po' a livello difensivo. Anche il fatto che non abbia un portiere vero e proprio titolare, secondo me, ha lasciato un po' di dubbi anche allo stesso Klopp, con Mignolet e Cario che si sono alternati in porta. Secondo me però, se dovesse trovare davvero il punto giusto in difesa, questo Liverpool può crederci. Probabilmente il Liverpool non è artista principale del suo destino, perché c'è il Chelsea che è distante qualche punto. Sì, anche se si è fermato. Grazie Riccardo. Grazie a voi ragazzi, un saluto. Grazie Riccardo Mancini. Questa sera 20:55 Fox Sport, West Ham Manchester City dell'FA Cup, 800-24-0024. Ci fermiamo, quando torniamo c'è Marco Bellinazzo. La pausa è veramente di 2 minuti, parliamo molto di calciomercato e non solo. Tutti convocati. Cerchiamo l'Europa delle opportunità. Più viaggio, più incontro persone della mia età che capiscono il mondo come il nostro mondo. Non è il mio paese, è la nostra Europa. Cerchiamo l'Europa dei valori. Io sono pro-europeo, sono uno che adora l'Europa. È una parte del mondo che mi affascina. Cerchiamo l'Europa dell'innovazione. C'è bisogno di informare e come possiamo aiutare i cittadini, i giovani, i ragazzi a capire che cosa è l'Unione Europea e cosa gli può offrire. Sono Federico Taddia e vi aspetto ogni sabato alle 12 all'Altra Europa per andare insieme a cercare e a scoprire l'Europa delle persone, delle storie e delle possibilità. L'Europa c'è, facciamola nostra. In collaborazione con Euronet Plus. Bologna-Venezia, viaggetto romantico, io, lei e il sistema Digital Radio. Sentiamo la radio? Certo, ma ascoltiamola in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto grazie all'autoradio digitale. Niente effetto salto, nemmeno se ti sposti per chilometri, perché il sistema Digital Radio non ti lascia mai. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Tutti convocati. È una bellissima giostra, carissimo Marco Bellinazzo, ciao. Eccomi, buongiorno a tutti. È una bellissima giostra il calciomercato. Oggi Bernardeschi e Berardi, tanto per fare due nomi, sui giornali erano accostati al Milan, nuovo Milan cinese che verrà a partire da giugno, ovviamente, all'Inter, alla Juventus, a qualche big straniera. Orsolini, poi racconteremo la vicenda, abbiamo sentito il Napoli che rilancia 7 milioni e mezzo, può arrivare a 9, giocatore che forse ne vale 4. Secondo me l'analisi più lucida l'ha fatta Maurizio Crosetti su Repubblica, dicendo che ad oggi il gap che ha la Juve rispetto alle altre rischia di diventare incolmabile. Gli effetti si vedono magari anche sul mercato, vedremo Suning, l'Inter, il suo progetto, però si fanno anche tante chiacchiere in questo mercato di gennaio. Lasciamelo dire, insomma è un po' il bello di questa fase della stagione, così come in estate si inseguono tanti sogni. Altra cosa sono le possibilità economiche delle squadre, altra cosa ancora sono i vincoli dei fair play finanziari per altre, fermo restando che indubbiamente la Juve ha un vantaggio enorme che deriva anche da questa programmazione sui giovani, no? È come se avesse una sorta di jus prime noctis che aveva ai tempi degli anni 80 quando entrò Berlusconi, no? Berlusconi racconta sempre che c'era questo jus prime noctis sui giovani forti italiani che dovevano andare alla Juventus o comunque essere prima offerti alla Juventus. Allora mentre lui Donadoni riuscì a strappare Donadoni all'Atalanta e fu una sorta di rivoluzione. Ora siamo un po' tornati a quel periodo in cui in realtà la Juve, con grande lungimiranza, oltre che ovviamente avendone la disponibilità economica, riesce in qualche modo a definire tutta una serie di assetti futuri prendendo i giovani di miglior prospettiva. Poi magari qualcuno lo inserisce in squadra, altri li manda in prestito, altri ancora riesce a valorizzare, a vendere e fare anche ricche plusvalenze. Ma quindi l'Inter che va su Gagliardini, il Napoli che va su Orsolini, poi insomma vedremo come andranno a finire queste due vicende, sono anche il segnale di qualcosa che gli altri cercano di cambiare. Beh, è chiaro che bisogna in qualche modo competere anche su questo piano con la Juventus, e quindi si cerca di puntare su giocatori giovani che magari si sono già affermati nel calcio italiano, che quindi non sono delle scommesse tout court, ma in qualche modo delle scommesse ponderate, e di conseguenza ecco il rilancio su Orsolini o il grandissimo investimento che sta tentando di fare l'Inter su Gagliardini, al netto dei problemi dei fair play finanziari. Ecco, perché Gagliardini non giocherà Udinese-Inter come sembrava fino a 2-3 giorni fa, ma invece molto probabilmente sarà convocato dall'Atalanta per la partita col Chievo? L'ho scritto ieri perché, fermo restando la volontà di Suning di investire sul giocatore e l'impegno dell'Atalanta a cedere Gagliardini all'Inter, che rimane la prima scelta, c'è un problema di fair play finanziario, nel senso che l'Inter è ancora sotto monitoraggio, deve chiudere il prossimo bilancio in pareggio. Ora, per l'Inter sarebbe stato ideale fare l'operazione con la formula del prestito più l'obbligo di riscatto, in modo tale da imputare gli oneri finanziari dell'operazione al prossimo bilancio, perché poi l'acquisto sarebbe stato fatto il 1 luglio 2017. e quindi si sarebbe potuto evitare di appesantire il bilancio 2017. Invece questa formula la UEFA l'ha accettata per un po', ha fatto capire chiaramente che non intende più accettarla, li considera quisit cur, quindi anche se l'Inter facesse questa formula, chiaramente la UEFA imputerebbe tutto il costo del cartellino, ovviamente con gli ammortamenti e quant'altro, il relativo ingaggio direttamente sul direttamente bilancio 2017, quindi per l'Inter diventa più problematico. Quindi l'Inter, o vendi e hai i soldi per l'Inter farlo. L'Inter proponeva, diciamo, una sorta di prestito più diritto di riscatto, l'Atalanta ovviamente cerca di monetizzare al massimo l'operazione Gagliardini, anche perché ci sono altre società che bussano alle porte del club bergamasco, e quindi di conseguenza l'Atalanta vuole la certezza di fare l'affare, di chiudere adesso un affare con un introito superiore a 25 milioni. Da qui il problema di capire come ovviare giuridicamente, tecnicamente a questo problema. Sì, devono trovare il modo di scrivere quel contratto, però è presumibile che Gagliardini andrà all'Inter. La volontà è quella delle parti, non c'è dubbio. Però il calciomercato ci ha abituato a tante sorprese e c'è questo problema giuridico che esiste, ecco, non è una qualcosa che si può facilmente aggirare, per cui bisognerà magari alzare il prestito, prevedere tutta una serie di condizioni per far scattare l'obbligo, insomma, che l'Inter fa sul serio. A proposito di milanesi, vi faccio sentire due cose. Ha fatto molto discutere, soprattutto a Napoli e Roma, è l'intervista d'inizio settimana che abbiamo fatto col presidente federale Tavecchio. Questo è il passaggio, quando dice: al calcio italiano serve il ritorno di Milano in grande stile, con tutto il rispetto per Napoli e Roma. Credo che Milano non può essere assente da un palcoscenico dove, pur con tutto il rispetto di Roma e Napoli, ma Torino ha una superiorità dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista anche culturale, di cultura della vittoria. Non gli bastano mai le vittorie, sono sempre assetati. A Napoli si sono arrabbiati molto. Beh, credo che... Però secondo me il discorso filava. Tante volte Tavecchio, come gli dice, cose giuste con le parole sbagliate. Nel senso che parole possono essere fraintese o comunque mal interpretate, però il discorso ha una sua logica, nel senso che la Juve oggi si viaggia verso i 400 milioni di fatturato, Napoli e Roma senza Champions sono intorno ai 120-130, una sproporzione enorme che soltanto invece le milanesi possono colmare, perché le milanesi, tornando in Europa, tornando a quello status che compete ai due club, diciamo, possono viaggiare verso i 250-300 milioni, visto il bacino d'utenza che hanno, e quindi in qualche modo, no, rendere più competitiva la Serie A. E credo che sia questo il ragionamento. Però poi il retropensiero dei tifosi è l'idea che il sistema possa spingere Milan, Inter a discapito di Napoli e Roma. Indubbiamente i tifosi, sai, fanno presto, insomma, a pensare male. Ti faccio sentire un altro passaggio. Siccome fra un paio d'anni diventa esecutivo il fair play finanziario all'italiana e molti club sono fuori, inutile che ci giriamo intorno. L'anno scorso di questi tempi Tavecchio aveva detto che soltanto in 5-6 si sarebbero potuti iscrivere. Senti cosa ha detto. Noi abbiamo messo delle norme per quanto riguarda i bilanci delle società, abbiamo messo delle norme stringenti. E io mi auguro di non tornarci sopra per poter dire dobbiamo fare delle deroghe, delle situazioni, perché oggi come oggi l'intervento di controllo sta arrivando a momenti di totali. Stiamo arrivando al cuore del problema. Al cuore del problema, che soprattutto quando noi vediamo attraverso gli organi di controllo interni che abbiamo, è il pagamento dei stipendi, il pagamento delle IRPE, il pagamento delle cose, l'attività che riguarda il mercato, e la capacità di reddito, la capacità di liquidità e la capacità patrimoniale. Ma lei si sente di garantire che non ci saranno deroghe? Guardi, io non posso garantire che non ci saranno deroghe, perché ci sono poi dei problemi che diventano di ordine pubblico. A me questa ultima parte ha fatto un po' impressione. L'Italia e il calcio italiano da questo punto di vista non fa eccezione, si basa sulle deroghe, sulle proroghe e sui rinvii, purtroppo aggiungo, perché lo sport invece dovrebbe essere un esempio virtuoso anche da questo punto di vista. Le regole che sono state introdotte dopo il caso Parma, anche per volontà del direttore generale della FIGC, Michele Uva, sono delle regole importanti. È stato dato un periodo lungo di adattamento, a mio avviso anche troppo lungo, ma comunque anche l'UEFA non ci ha messo poco, indubbiamente, però voglio dire è un sistema che ha una sua logica. Personalmente io preferisco il fair play finanziario made in England, perché pone un tetto agli ingaggi e ti permette di derogare se riesci a ottenere più ricavi dallo stadio, dal commerciale, non quelli dei diritti TV, e quindi permette in quel caso di innalzare gli ingaggi. Ma in ogni caso anche le regole italiane hanno una certa efficacia, dovranno avere una certa efficacia. Sarà fondamentale non fare deroghe, così come sarà fondamentale, a mio avviso, anche prevedere le regole importanti dal punto di vista infrastrutturale, evitare che ci siano squadre che devono peregrinare per trovare uno stadio in cui giocare in Serie A, non è più accettabile, e che tutto questo poi faccia da corollario a una vera riforma anche dei campionati, una riduzione delle squadre di Serie A 18, la riduzione anche magari della Serie B, della Lega Pro, che renda cioè il sistema un po' più sostenibile. Se l'economia reggerà, insomma, si potrà pensare successivamente ad allargare, ma in questo momento il sistema non regge. Michele Criscitia, lo Sport Italia, ciao. Buon pomeriggio, ciao Giovanni. Ci dici cosa sta succedendo adesso, ore 15:11 del 6 gennaio sul mercato? Abbiamo detto prima Orsolini, un'asta, Juve, Napoli. Secondo me Giovanni, Orsolini ormai ha preso la direzione di Torino ed è una direzione abbastanza chiara, perché non l'ho chiamato. Aspetta Michele, perché si sente malissimo. Proviamo a riagganciare la linea. E vedere insomma se riusciamo a fare la nostra chiacchierata. Però quest'idea che si paghino forte i giovani è secondo me un'idea giusta. Chiaramente è meglio investire lì piuttosto che in stipendi di qualche quasi ex giocatore. No, è una linea, ma non vale solo per la Juve, vale in generale. È una linea giusta, è una linea che ti può dare anche molta soddisfazione dal punto di vista economico. Ora, al di là di chi acquista, pensiamo anche a chi vende. Cioè l'Atalanta, con il suo exploit di questo inizio campionato, tra Caldara, Gagliardini, un futuro anche, non so, Petagna, Papu Gomez, cioè potrà realizzare entrate per quasi 100 milioni. Settimana prossima lo annunciamo, faremo i conti in tasca. Pensiamo insomma alla famiglia Bercassi, a quanto frutta il settore giovanile dell'Atalanta, quanto è stato giusto investire su Zingonia. Michele Criscitiello, Michele. Spero vada meglio, Giovanni, mi senti? Sì, benissimo, vai. Benissimo, no, ti dicevo di Orsolini ormai ha preso la strada di Torino, perché negli ultimi due giorni, ieri e l'altro ieri, sono state due importanti a Palazzo Parigi tra Pratico e Zaretta, valutazione 4 milioni e mezzo di euro. Il ragazzo resterà ad asta, che finirà l'operazione a giugno. Comunque la Juventus l'ha di fatto bloccato, come fece con Sensi, con il Cesena tramite Sassuolo, e come già fece con Gant, che però era una scadenza di contratto. Quindi l'operazione si concluderà. Per quanto riguarda le tempistiche, abbiamo detto in estate, l'Inter invece, secondo me, non lo definirei un giallo, ma la definirei un'operazione ancora tutta da definire sotto alcuni aspetti, è quella per Gagliardini, perché per Gagliardini sappiamo benissimo che l'Inter vuole il prestito di riscatto, mentre l'Atalanta vuole l'obbligo di riscatto. Siccome la cifra è importante, 28 più commissione, arriviamo sui 33 milioni di euro, allora bisogna ragionarci bene. Lunedì sarà il giorno chiave. Sì, anche se spiegava poi, è credo una questione, come spiegava Marco Bellinazzo, anche di cavilli, di norme, di come scrivere questo contratto per evitare di far arrabbiare l'UEFA. Hai notizia di chi parte dall'Inter portando soldi veri? Quindi evitiamo regali, prestiti e cose varie. Allora, soldi veri in questo momento chi parte non ne porta, perché Jovetic, allora dobbiamo specificare una cosa: se per soldi veri intendi che ti paghino il cartellino del calciatore, in questo momento la risposta è assolutamente no. Però io credo che soldi veri siano anche il risparmio del lordo di un ingaggio come quello di Jovetic, perché comunque quelli sono soldi veri, così come in questo momento l'Inter sta cercando di fare un po' di pulizia. Mi sembra abbastanza chiaro che si passa da Jovetic, non si finirà da Jovetic. C'è il rinnovo di D'Ambrosio e Balla, che è comunque un altro discorso spinoso da affrontare, però io credo che in questa sessione invernale l'Inter non farà assolutamente grandi questioni dal punto di vista economico. Si libererà di alcuni ingaggi pesanti, che già questo è un bel vantaggio dal punto di vista finanziario e bilancistico. È anche una delle cose che serve per mettersi in linea con i parametri, perché non c'è solo il famoso bilancio zero. No, c'è anche la necessità appunto di tenere in linea il Monte Ingaggi rispetto a quello che era 2 anni fa, quando l'Inter diciamo è entrata sotto stretta osservazione a Nyon, e c'è la necessità però indubbiamente di sganciare tutta una serie, ecco, di ingaggi importanti, di razionalizzare la rosa anche in vista di quello che poi sarà il calciomercato dopo il 1 luglio 2017, quando Suning si ritiene appunto avrà poi le mani libere rispetto al fair play finanziario e potrà far vedere effettivamente quale sarà il progetto dell'Inter mondiale, l'Inter europea, che è il cuore di tutto il programma che i cinesi stanno realizzando, che stanno pensando a proposito del club nerazzurro. Certo, ancora un minuto con Michele Criscitiello, Sport Italia. Allora, flash, il Napoli si è pentito di non aver venduto Gabbiadini quest'estate, visto le cifre che girano adesso? Giovanni, assolutamente sì. Quando l'Inter aveva offerto in prima circostanza 32 milioni di euro doveva venderlo, però il problema lì dov'è? Che Sarri non ha mai creduto nel calciatore, soprattutto per una questione tattica, lui lo vedeva a prima punta, mentre Giuntoli e De Laurentiis hanno sempre creduto in Gabbiadini, lo vedono come un esterno offensivo e quindi di fatto perdono 15-16 milioni di euro. Oggi stanno provando a venderlo a 17-18 milioni di euro, c'è il Southampton, c'è il Wolfsburg, c'è anche l'Olympique Marsiglia, però nessuna di queste società, sapendo che il Napoli comunque è obbligato a venderlo dopo che ha comprato Pavoletti, vuole arrivare a 17-18, tutti vogliono fare l'affare a 12-13. Comunque sta di fatto che Gabbiadini per forza dovrà lasciare Napoli, cerca un ingaggio da 2,5 netti a stagione fino al 2020, quindi anche questo è un discorso da affrontare. La risposta secondo me è il Napoli assolutamente si è pentito di non averlo venduto, però ovviamente non te lo diranno mai, ma con i fatti l'ha dimostrato. Certo, la Juve, chi viene se visto che non è arrivato Witzel? Cerca un terzino sinistro, il centrocampista lo farà solo se è un centrocampista importante. Quindi resta così com'è? Resta così com'è, prenderà un centrocampista solo se arrivano delle situazioni veramente vantaggiose, ma solo in caso di un big, questo te lo posso garantire. Per quanto riguarda l'esterno sinistro, lo stanno cercando soprattutto all'estero, Evra di Valencia si è fatto forte, c'è anche il Manchester United, un sondaggio del Chelsea, Evra comunque non rientra più nei piani di Max Allegri, di Paratici e Marotta, quindi andrà ceduto. E come parlavamo dell'Inter anche alla Juventus, comunque c'è un risparmio di ingaggio non indifferente all'ordo. Per quanto riguarda il resto, io credo che la Juventus continuerà a fare quello che già ha fatto in questo mercato di gennaio, blocca Stellini per giugno, opzione a Caldara, lo prende, lo paga 20 milioni di euro ma lo farà maturare 6 mesi ancora all'Atalanta e fa bene, lì gioca mentre a Torino non giocherebbe, e quindi è un'operazione che la Juventus così può farla e se la può permettere, al contrario dell'Inter che invece di Gagliardini in teoria se lo paga ne avrebbe bisogno già da questo inverno. Quindi sono una serie di situazioni di incastri, però quello che dobbiamo sottolineare, visto che Bellinazzo è il re in materia economico-finanziaria per quanto riguarda questi aspetti, dobbiamo sottolineare che finalmente c'è un mercato che punta ai giovani. Tu compri i giovani, ma soprattutto un mercato interno, perché il Genoa vende Rincon alla Juventus e Pavoletti al Napoli, ma poi ti toglie le tempeste, anche se in parte, ma comunque prende Morosini dal Brescia e allo stesso tempo paga 1,8 milioni Beghetto che arriva direttamente dalla Spagna. Sì, sono soldi che restano nel sistema. Ma girano sempre in Italia e questo è un grandissimo vantaggio per il nostro sistema. Sì, per 2-3 anni ci ha tenuto a galla, diciamo, il Paris Saint-Germain, acquistando tutto quello che poteva acquistare in Italia. Ora per fortuna le cose stanno migliorando, si punta sui giovani italiani e il fatto che girino queste somme e soprattutto si investa sui giovani, perché per esempio anche l'operazione Genoa-Morosini è un'operazione importante di prospettiva che vede finalmente il Made in Italy e i giovani italiani insomma alla ribalta e non più soltanto insomma nei programmi dei convegni ma nella realtà poi del calciomercato e soprattutto poi giovani che stanno dimostrando, l'Atalanta lo insegna, che possono dare un contributo importante. Sì, grazie Michele. Sì, buon proseguimento, buona giornata. Grazie Ciao. Michele Criscitiello, buon lavoro, perché si apre il mese del mercato, quindi le redazioni sono scatenate. Mi mettete la musichetta cinese? Anche se dovremmo mettere in realtà la musichetta delle Isole Vergini, insomma, sì, abbiamo letto finalmente le carte di questa seconda caparra da 102 milioni di euro. Io non so che opinione ti sei fatto tu. Beh, opinione è difficile dirlo, insomma, innanzitutto va dato merito insomma ai colleghi di calciofinanza.it che aver portato a galla i documenti su cui si può effettivamente dire che il giro finanziario lascia i soliti dubbi, tanti dubbi che ruotano intorno a questa operazione Milan. Di per sé il fatto che dei soldi possano arrivare da una finanziaria che ha sede nelle Isole Vergini britanniche, per chi conosce il mondo della finanza in quanto tale, non è una cosa che fa caponare la pelle. Ma il fatto che sia legato a questa operazione, dopo tutto quello che è successo e dopo i tanti dietro front sui closing, i rinvii, le proroghe, i cambi di casacca, i cambi di advisor, i cambi di cordata, insomma, lascia un po' perplessi. Io dico che però qui dobbiamo valutare i vari aspetti, nel senso che il Milan intanto ha in cassa 200 milioni. Siccome il trasferimento è avvenuto, ora che sia avvenuto dalle Isole Vergini britanniche o piuttosto dalla banca del centro di Milano, cambia poco nell'ottica in cui comunque deve essere stato fatto, dovrà essere fatto, immagino, il controllo antiriciclaggio. Cioè lo devono fare i professionisti che hanno assistito le parti nella transazione, cioè devono certificare in qualche modo che la provenienza della provvista di quei 200 milioni sia una provenienza certificata, mentre qualora avessero avuto un minimo dubbio avrebbero avuto l'obbligo di segnalare il tutto all'autorità antiriciclaggio italiana. Se questo non è stato fatto, visto che ci sono professionisti di assoluto livello a gestire l'operazione, immagino insomma che abbiano queste certezze. Ciò non toglie che la stessa autorità giudiziaria, che la Guardia di Finanza o l'amministrazione finanziaria, se hanno dei dubbi possono chiedere andare a cercare di vedere le carte. Quindi diciamo che al di là della provenienza, visto che l'operazione è stata fatta, si tratta tra l'altro della Fininvest, il soggetto quotato in borsa, quindi io immagino che siano stati rispettati tutti i paletti legali. Quindi diciamo da questo punto di vista il problema vero resta la definizione della cordata e resta quello che sta avvenendo in Cina, che è interessante, adesso ne parliamo. Insomma, Cina che sta strapagando tutti, i club esteri, le partecipazioni nei club esteri, i giocatori che deve portare come cartellino, come ingaggio. Ieri insomma il governo, attraverso una delle sue mille autorità, ha provato a cominciare a mettere un freno. Io non so se questo avrà una ricaduta poi sul closing del Milan. Potrebbe o averlo anche sullo stesso calciomercato. Beh, sai, allora l'operazione, le questioni sono due. Allora, per quanto riguarda l'avvertimento, perché di questo si tratta finora, dell'autorità che amministra lo sport, l'autorità che fa capo al governo di Pechino, riguarda in qualche modo il calciomercato, perché si parla di tetti che dovranno essere messi agli ingaggi e agli acquisti dei cartellini per evitare che siano bruciati soldi dalle aziende che operano in questo settore con delle squadre. Anche perché è il campionato aspetto cinese, diciamo la verità, non è che navighi nell'oro, cioè assolutamente, non fa fatturati che possono reggere quel tipo di stipendi. Sta crescendo dal punto di vista delle presenze, ha superato per esempio la Serie A italiana, ma uno direbbe sono 1,5 miliardi, è facile, però intanto diciamo la media spettatore è interessante, sta crescendo dal punto di vista dei diritti TV, ma nulla che lascerebbe, come dire, giustificare dal punto di vista diciamo delle entrate proprie del calcio le spese a cui stiamo assistendo. Altro aspetto riguarda l'acquisto di club. Allora, da questo punto di vista c'è una, diciamo, la procedura di controllo prevede che se una società che come dire, opera in un certo settore possa acquistare, voglia acquistare all'estero una società che opera nello stesso settore, diciamo, la procedura è abbastanza semplice. Viceversa, se si va a investire in altri settori c'è il passaggio attraverso tre autorità amministrative, non stiamo qui a spiegare ora nel dettaglio, ma questo spiega sì, un po' tutto più complesso, tutto più la lunghezza dei tempi. Il governo di Pechino ha accumulato tante riserve in questi anni per i surplus commerciali, sta tentando ora di evitare che con la scusa di investire nel calcio tanti portino dei soldi fuori e quindi esportino i capitali e indeboliscano la moneta cinese. La domanda è: il governo cinese è intervenuto perché ha capito che nell'operazione Milan, che sarebbe il fiore all'occhiello della colonizzazione del calcio europeo da parte dei cinesi, c'è qualcosa che non va e quindi un messaggio che è stato dato indirettamente? Oppure perché ha visto girare delle cifre? Oppure perché ha visto troppi soldi? Questa è la vera domanda. Saluto Andrea D'Amico, procuratore, conoscitore di tutta la materia, che ha un'idea che io sottoscrivo. Io ho scritto a metà dicembre, dovrebbero mettere il fair play finanziario globale, tra l'altro c'è Infantino alla FIFA adesso, è uno dei papà del fair play finanziario dell'UEFA, perché attenzione, altrimenti i soldi cinesi rischiano poi di danneggiare tutti, anche in Europa, anche quelli che adesso sono contenti perché incassano soldi. Andrea D'Amico, so che sei d'accordo abbastanza. Buongiorno, ma veramente io sono d'accordo sull'uniformità di trattamento di regolamenti, però se devo essere sincero io sono contrario al fair play finanziario anche da noi, nel senso che, mi spiego meglio, penso che il fair play finanziario sia uno strumento introdotto soprattutto da Blatter e da Platini per due motivi in particolare, comunque per fare in modo di far vedere alle piccole nazioni che comunque votavano la loro elezione, che comunque loro erano per un calcio sostenibile, per così dire, e dall'altra parte perché i grandi potessero rimanere grandi e i piccoli potessero rimanere piccoli, perché è chiaro che se dobbiamo fare delle spese in ragione a dei parametri dovuti al fatturato e tante altre voci che non siamo qui ad elencare, è chiaro che per arrivare ad un fatturato del Real Madrid, del Bayern Monaco, del Manchester e via discorrendo, gli altri non ci arriveranno tantissimi mai, anni. Certo. Mentre quello che è importante è non impedire ad un magari un proprietario ricchissimo che compri il Paris Saint-Germain piuttosto che lo Zenit che è di Castro, di non impedire di spendere dei soldi sul mercato facendo crescere sempre più queste squadre. Senti, ma i soldi cinesi fanno il bene o il male del calcio mondiale ed europeo in particolare? Ah, guarda, io penso che non sono per una economia dirigista, per cui penso che l'economia trovi sempre i suoi... Intanto ha fatto bene al calcio italiano, perché non dimentichiamo che la Cina è il maggior finanziatore del calcio italiano, con Wanda che è proprietaria di Infront, che elargisce tantissimi soldi con i diritti televisivi. Poi è chiaro che quando arrivano queste iniezioni di moneta per gli acquisti di giocatori importanti, fanno bene a chi li riceve. E penso che a livello mondiale il calcio sia lo sport più seguito e più praticato, e il calcio voglia dire soprattutto potere economico, potere televisivo. Non dimentichiamo che anche in Italia, se andiamo a vedere all'Auditel, le prime 20 trasmissioni più seguite sono 20 partite di calcio, quindi calcio. Alla fine anche da noi il calcio, se non è la quarta, quinta azienda, poco ci manca come aggregato a livello di fatturato, non solo, ma è anche ha un valore politico secondo me molto importante, ed è per questo che io giustifico l'intervento della Cina, perché con le frontiere che ormai non esistono più, soprattutto con le tecnologie che permettono a tutti di essere virtualmente in qualsiasi parte del mondo, tu devi amministrare 1,5 miliardi di persone dando loro dei contenuti e quindi in qualche modo assimilando il calcio a una religione laica che non crei problemi, che dia quindi la possibilità anche a chi magari fa un lavoro umile di sentirsi importante e di tornare a casa felice dopo una settimana di lavoro e vedersi la propria squadra del cuore. Si devono occidentalizzare, un fattore sociale di stabilizzazione sociale molto importante, ma anche senza andare fino in Cina, basta pensare cosa sarebbero certe nostre città senza calcio, insomma. Sicuramente a livello sociopolitico è un fattore di rilievo. Sì, abbiamo visto cosa è successo quando qualche grande piazza ha rischiato di saltare o è saltata. Abbiamo finito, io ringrazio Andrea D'Amico, ma tanto torneremo su questo tema. Io continuo a trovare miope che ci pigliamo i soldi cinesi così, perché adesso arrivano senza capire che invece sarebbe più utile fare un sistema di regole condiviso. Ma andremo avanti. Ringrazio anche Marco Belinazzo. Grazie a voi, a presto. Ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia. Noi torniamo domenica in diretta alle 17 dopo le partite del pomeriggio. Ciao.